che una volta ho trovato 50 euro. Me l'hai già detto, me l'hai già detto. E guarda. E mo che hai trovato? Era rotto, non so, poi manca il carico. Grazie a te. Non compro.